Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il tasso di mobilità è quello fisiologico, perché di tutti questi che ho detto si muoveranno 7.000 insegnanti. L'anno scorso 7.700 insegnanti si sono spostati dalle loro sedi per una supplenza, quest'anno quelli che lo vorranno potranno farlo per un posto stabile di ruolo nella scuola pubblica. Ci avevamo lasciate, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, proprio ieri, quando vi avevo avvisato che entro la mezzanotte doveva arrivare questo responso online per tanti insegnanti precari che dovevano capire se si sarebbero dovuti spostare da una regione all'altra. Bene, oggi nella notte c'è stata l'assegnazione, almeno le proposte di assunzione, bisogna vedere se poi le insegnanti accetteranno, insomma, di spostarsi. Comunque l'avete sentita, era la ministra dell'istruzione Giannini, che oggi in una conferenza stampa ha tracciato un po' il quadro di questa legge chiamata Buona Scuola. Lo ha fatto a Roma a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico e ha detto questo ministero, questo governo, insomma, finora hanno assunto 38.000 insegnanti in tutta Italia, sono solo 7.000, ha detto, quelli che saranno in mobilità, che dovranno spostarsi, e si concluderà questa decisione degli insegnanti e degli insegnanti entro l'11 settembre, perché se qualcuno rifiuta perderà, insomma, i diritti, l'assegnazione del posto di ruolo, eccetera eccetera. Quindi una notizia molto importante questa, a cavallo tra ieri oggi, e poi continua ormai da mesi, come sempre, a essere al centro delle notizie, anzi sempre al primo posto e anche al primo posto dell'agenda europea, l'emergenza immigrazione, che ormai, diciamo, questa è un'espressione fatta ormai, l'emergenza immigrazione, ma si comincia a parlare di esodo epocale, perché pare che dalla Seconda Guerra Mondiale che non ci fosse un così grande spostamento di esseri umani dei territori ad altri. Quindi inevitabilmente ne parleremo anche stasera, ne parleremo con l'ex ministro Enzo Moavero Milanesi più tardi, tra i vari ospiti che ci saranno questa sera. Tra le varie cose, tra i vari temi, parleremo anche di quello che è successo a Parigi, questo incendio in cui è morta un'intera famiglia senegalese, e poi molti altri argomenti, tra cui il cinema a Venezia. Oggi apre, ci sono 4 film italiani in concorso, e si è aperto con un film che non è in concorso ma che sembra spettacolare, questo Everest in 3D con un cast di star internazionali incredibili. Insomma, non lasciate effetto notte, anzi, avete appena iniziato e naturalmente lo sapete, insieme sino alle 22 potete scrivere i vostri commenti nel frattempo, come sempre, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al 349 238 6666. Diciamo, l'argomento centrale è sempre quello, l'immigrazione, però potete, sulle notizie di oggi ovviamente di interesse generale, anche scrivere come sempre le vostre opinioni, 349 238 6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Allora vi riassumo la giornata, consuetudine dell'inizio, e poi cominciamo a approfondire i temi. Migranti, intesa tra Italia, Francia e Germania per una redistribuzione più equa in Europa, più controlli anti-immigrazione alla frontiera del Brennero, dure reazioni contro Praga che segna i migranti col pennarello. Scuola, gli assunti sono 38.000 nuovi docenti, la mobilità riguarda solo 7.000, dice la ministra Giannini, il grosso dei trasferimenti va dalla Sicilia verso la Lombardia. Tasse sulla casa, Renzi ne annuncia il funerale per il 16 dicembre a Bruxelles, che ieri aveva criticato queste misure, replica: decidiamo noi, non l'Unione Europea. Vittoria per Obama sul nucleare Iran, ai voti necessari per blindare al Congresso, il Parlamento americano, l'accordo sul nucleare, sconfiggendo così il boicottaggio dei repubblicani. Parigi, in un incendio, tra le 8 vittime muore un'intera famiglia senegalese, fermato un uomo con problemi psichici. Cinema, la mostra del cinema di Venezia apre le porte con il film in 3D Everest dal cast stellare. E per il ciclismo, Fabio Aru in maglia rossa è il nuovo leader della Vuelta di Spagna. Partiamo quindi da questa enorme crisi umanitaria, ormai definita storica, vi dicevo, rappresentata appunto da un esodo epocale che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. L'Europa quindi in grave difficoltà, lo vedete, lo sentite costantemente nel gestire questi flussi di migranti che arrivano dal Mediterraneo e dall'Africa. Intanto i ministri degli esteri di Italia, Francia e Germania hanno firmato un documento, un'intesa comune, per chiedere di rivedere le regole europee, a partire dall'accordo di Dublino in materia di asilo e un'equa ripartizione dei rifugiati sul territorio europeo. Il documento, spiega la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano in una nota, mette in rilievo come alla luce dei limiti e delle manchevolezze chiaramente mostrati dall'attuale sistema di regole europee in materia di asilo, creato ormai 25 anni fa, adesso occorra un po' insomma rivederlo a partire appunto dall'accordo di Dublino. Questo documento è stato inviato all'alta rappresentante della politica estera europea, che è Federica Mogherini. Poi ne parleremo, vi dicevo, con l'ex ministro agli affari europei Enzo Moavero Milanesi. Per quanto riguarda invece la coppia di coniugi uccisi nel Catanese, oggi a Palagonia si sono tenuti nel pomeriggio i funerali dei coniugi Solano, mentre l'ivoriano, il 18enne ivoriano accusato del duplice omicidio, continua a dirsi innocente. Rabbia, commozione ma anche riservatezza richiesta dai familiari dei coniugi uccisi domenica nella loro villetta a Palagonia. Nessuna passerella di politici aveva auspicato la figlia. Di cittadini invece ce ne sono stati a centinaia questo pomeriggio ai funerali di Vincenzo Solano e della moglie Mercedes Ibanez. Poco prima nel carcere di Caltagirone terminava l'udienza per l'eventuale convalida del fermo di Mamadou Camara. Il 18enne ivoriano accusato dell'omicidio della coppia, ospite del centro per richiedenti asilo a Mineo. Struttura che proprio in queste ore è stata commissariata dal Viminale. La decisione non si lega all'omicidio, dipende dalle inchieste in corso sugli appalti truccati per l'allestimento del centro. Il GIP, che oggi ha interrogato Camara per 5 ore, deciderà entro domani se l'extracomunitario dovrà restare in carcere. Lui continua a professarsi innocente, sostenendo di aver trovato dentro il cassonetto dei rifiuti il borsone con i cellulari, il PC portatile delle vittime e anche i propri pantaloni sporchi di sangue. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la scuola, dicevamo, con la ministra dell'istruzione Giannini, oggi in conferenza stampa, che ha fatto il punto sulle assunzioni. Sale a 38.000 il numero dei docenti precari assunti con contratto a tempo indeterminato grazie alla riforma della buona scuola. Ai 29.000 stabilizzati ad agosto si aggiungono i 9.000 che stanotte hanno ricevuto l'email con la proposta di assunzione da parte del Ministero dell'Istruzione. Altri 55.000 verranno assunti entro novembre. Solo in 7.000 dovranno trasferirsi in altre regioni, ha fatto sapere il ministro Giannini rispondendo alle critiche dei sindacati. L'anno scorso 7.700 insegnanti si sono spostati dalle loro sedi per una supplenza, quest'anno quelli che lo vorranno potranno farlo per un posto stabile. Il grosso dei trasferimenti sarà da sud verso nord, in particolare dalla Sicilia verso la Lombardia e dalla Campania verso le regioni settentrionali, ma anche verso il Lazio, soprattutto a Roma. Fra i neoassunti, uno su due ha meno di 40 anni, ha fatto sapere Giannini, la quale ha anche annunciato che la prossima settimana verrà assegnato il fondo di funzionamento delle scuole. Le risorse destinate agli istituti sono state più che raddoppiate rispetto allo scorso anno, passando da 110 a 232 milioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sulla politica in senso più lato, con i dati sull'economia e le risposte che Renzi ha dato a Bruxelles a proposito delle tasse sulla casa. La legge di stabilità si avvicina e Matteo Renzi non accetta diktat da Bruxelles, soprattutto sul taglio delle tasse. Forte dei nuovi dati Istat che indicano una ripresa leggera ma comunque maggiore delle aspettative, il Premier risponde alle critiche dell'Unione Europea sulla decisione di togliere l'odiata TASI sulla prima casa. Per Bruxelles sarebbe più auspicabile intervenire sul cuneo fiscale, ovvero sul costo del lavoro. Ma Renzi replica: quando c'è da parlare di immigrazione a Bruxelles sono tutti in ferie, quando si parla di tasse si svegliano tutti insieme. Ce le abbassiamo da soli, non ce lo facciamo dire dall'Unione Europea. Il 16 dicembre gli italiani pagheranno la seconda rata della TASI, quella del funerale delle tasse sulla casa. Da Forza Italia Mara Carfagna chiede a Renzi di occuparsi di immigrazione e non di tasse, mentre Matteo Salvini della Lega è possibilista. Era una nostra idea e siamo pronti a sostenerla. Dalla minoranza PD Alfredo Dattorre approva il metodo Renzi, ma chiede di discutere della sostanza e di sospendere l'applicazione del Fiscal Compact. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è una dichiarazione del ministro Alfano, ne ha fatte diverse perché stasera è alla Festa dell'Unità di Milano, a proposito della richiesta, sapete, ieri, in vista del giubileo da parte del Papa, su una grande amnistia in occasione del giubileo. Alfano ha risposto così: dobbiamo fare in modo che le carceri siano luoghi di rieducazione, ma chi è condannato resti in carcere fino all'ultimo giorno. Così ha risposto oggi Alfano. E poi altro tema: le unioni civili con una maggioranza diversa da quella di governo, una inconsueta maggioranza fatta di PD e Movimento 5 Stelle. Oggi è arrivato da questa maggioranza il via libera del Senato, l'emendamento più importante del disegno di legge Cirinnà, che è appunto quello sulle unioni civili. Contraria Area Popolare, il Nuovo Centrodestra si astiene. Le unioni civili sono una specifica formazione sociale e la formula indicata dall'emendamento passato oggi in Commissione Giustizia a Palazzo Madama del disegno di legge Cirinnà. Il via libera è arrivato grazie all'inusuale maggioranza Partito Democratico Movimento 5 Stelle. La terminologia adoperata per indicare la specificità delle unioni fra persone dello stesso sesso è frutto della mediazione tra le diverse aree del PD. L'obiettivo è evitare l'equiparazione con il matrimonio tradizionale. Il testo passato è una premessa all'articolo 1 del DDL e inserisce le unioni civili nel quadro dell'articolo 2 della Costituzione, che parla dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sganciando così il provvedimento dall'articolo 29, che disciplina invece l'istituto del matrimonio. A spiegare la contrarietà dei moderati e Sacconi: formazione sociale vuol dire matrimonio, quindi noi non possiamo essere d'accordo. I lavori riprenderanno martedì mattina, la conclusione al momento appare lontana. Il tempo necessario per evitare fratture troppo profonde all'interno della maggioranza, che nei prossimi giorni dovrà votare la riforma del Senato. Daniela Abrunzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo all'estero. Il presidente americano Obama ha raggiunto in Parlamento, al Congresso americano, la soglia minima di 34 senatori necessaria per blindare l'accordo, l'intesa, vi ricordate, raggiunta a luglio sul nucleare iraniano. E ora quindi i numeri per contrastare il boicottaggio dei repubblicani. Poi ne parleremo collegandoci con New York. Invece ci spostiamo adesso in Yemen, dove almeno 20 persone sono morte dopo che un kamikaze si è fatto saltare in aria in una moschea di Sana'a, che è la capitale, e quasi contemporaneamente un'autobomba esplosa fuori dal luogo di culto, lo riferiscono fonti mediche, precisando che il bilancio delle vittime è destinato a salire. E siamo di nuovo in Italia con la cronaca. La questura di Torino ha riaperto le indagini per il caso di una donna di 53 anni precipitata da una nave da crociera lo scorso 19 luglio e ora si indaga per tentato omicidio. Non volevo uccidermi, mi ha buttata. Con queste parole si sveglia dal coma Flora Stuardo, la turista torinese caduta dalla nave Costa Fortuna durante una crociera nel mare norvegese. I familiari accusano il compagno di viaggio della donna, l'unico che, secondo il personale di bordo, aveva le chiavi della cabina. Quello che la polizia norvegese aveva archiviato come un incidente è diventato quindi un'inchiesta per tentato omicidio. Il pubblico ministero di Torino, Marco Sanini, sta ricostruendo gli avvenimenti della serata. Le telecamere di sicurezza della nave ritraggono la donna appesa al balconcino della cabina qualche istante prima del volo di 30 metri nell'acqua gelida. Alcuni passeggeri hanno sentito che i due litigavano, poi, subito dopo, l'urlo della donna. Il compagno ha dichiarato fin dal primo giorno di aver assistito impotente al salto nel vuoto, ma Flora Stuardo, ora ricoverata in ospedale e fuori pericolo, ha assicurato di non aver tentato il suicidio. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un aggiornamento su questa notizia. Poco fa si è appreso che la donna nella caduta avrebbe potuto riportare danni cerebrali, un'ipotesi che, se confermata, se ci fossero davvero questi danni cerebrali, renderebbe più difficoltoso accertare la veridicità delle affermazioni della donna. E poi, sempre per la cronaca, una coppia di coniugi cinquantenni sono stati trovati morti in un'abitazione a Pianiga, nel Veneziano. Secondo quanto si è appreso, la donna sarebbe stata trovata nella camera da letto riversa, con un'evidente macchia di sangue all'altezza del capo, mentre il corpo del marito sarebbe stato rinvenuto impiccato nella cantina di casa, il che farebbe pensare al consueto omicidio, femminicidio, suicidio. Ma gli inquirenti naturalmente muovono le indagini in tutte le direzioni. Solo ieri, vi ricordate, l'ultimo caso di un 41enne vicino Brescia che ha ucciso l'ex compagna di 18 anni. E poi, per chiudere, il cinema. Per 10 giorni Venezia diventa la capitale del cinema mondiale. Fino al 12 settembre, alla 72esima mostra internazionale d'arte cinematografica, tanti film, anteprime, star internazionali sul tappeto rosso. Il film d'esordio, anche se fuori concorso, è Everest, un film in 3D di cui parleremo più tardi, proprio collegandoci con Venezia. E poi sono 4 i film italiani in concorso. C'è il ciclismo, proprio per la chiusura definitiva di questa prima parte di Effetto Notte. L'italiano Fabio Aru in maglia rossa è il nuovo leader della Vuelta di Spagna. La frazione di oggi è stata vinta dal compagno di squadra, lo spagnolo Mikel Landa Meana, che lo ha preceduto di circa 1 minuto e 21 secondi. Direi che per il momento è tutto per il riassunto della giornata. Poi, dopo, come sempre, dopo la viabilità, cominciamo con gli ospiti ad approfondire alcuni temi. Vedo già i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote e al 349-238-6666. A proposito dei precari, degli insegnanti, delle assunzioni, Clotilde scrive: ma questi parlamentari che straparlano, perché non provano a vivere a Roma con 1.300 euro senza nessun benefit? Forse capirebbero i malumori dei docenti. Mentre Andrea da Bologna fa una proposta: soluzione immigrazione, dice, estendere il territorio dell'Europa includendo i paesi di provenienza dei profughi. Diciamo, c'è dell'ironia. E poi invece Domenico Alberto scrive: desidero solo capire una cosa, se l'emergenza migranti è adesso, perché bisogna convocare per il 14 settembre e non ora il vertice dell'Unione Europea per prendere decisioni? In realtà, Domenico, oggi c'era un magma di iniziative, di riunioni, di vertici. Per esempio domani Juncker, presidente della Commissione Europea, incontrerà Orban, il presidente ungherese. Poi si vedranno anche vari altri leader e ministri della difesa dell'Unione Europea, anche a Lussemburgo. Insomma, ci sono vari incontri nel frattempo e poi si arriverà a questa data dove verranno raccolte un po' tutte le proposte. Si capirà fino a quel punto cosa si è fatto e cosa ancora si deve fare. Per il momento noi dobbiamo soltanto aggiornare chi sta viaggiando e poi tra poco ritorniamo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci di nuovo, stavo ancora guardando i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Non abbiamo più fiducia in questo governo, toglieranno l'IMU eccetera eccetera, poi puntualmente tireranno fuori altre tasse. Questo è l'altro tema invece a proposito della replica di Renzi a Bruxelles. E poi altri messaggi sull'immigrazione che leggerò tra poco. Adesso vi ricordo quali sono le notizie principali perché molti accendono in momenti diversi e poi andiamo di nuovo sul tema centrale. Eccole qua le notizie. La polizia della Repubblica Ceca, questa è la notizia che oggi sta facendo molto discutere. Marchia, così titolano molti siti, giornali eccetera. Marchia in realtà segna con un pennarello i profughi sul braccio, sulla mano, e intanto Berlino, Parigi, Roma trovano un'intesa insieme sui migranti, un documento in cui chiedono all'Unione Europea di agire subito. Renzi dice che il 16 dicembre sarà il funerale delle tasse sulla casa. Decidiamo noi, non l'Unione Europea, perché vi ricordate che ieri Bruxelles ha detto in realtà sarebbe meglio aumentare, cioè tenere le tasse sulla casa e elevarle invece o abbassarle sul lavoro. Poi scuola, assegnate le sedi, 7.000 saranno in mobilità ma con un posto fisso, devono decidere entro 10 giorni. Stasera, ieri notte è arrivato il responso, le assegnazioni delle sedi e 7.000 si dovranno spostare. Iran, vittoria per il presidente americano Obama sul nucleare iraniano, ha i voti necessari sul nucleare per evitare il boicottaggio dei repubblicani, perché deve votarlo questo accordo anche il Parlamento americano. Incendio a Parigi, tra le 8 vittime un'intera famiglia senegalese, è stato fermato un uomo con problemi psichiatrici, aveva una candela e un accendino in mano. Cade in mare durante la crociera una donna che è caduta il 19 luglio scorso, una donna italiana, è uscita dal coma ed è giallo perché dice: ero felice, non avevo nessuna intenzione di suicidarmi, però bisogna capire se non ha subito dei danni cerebrali e quindi capire se è vera questa ipotesi oppure no. E poi a Venezia si apre la 72esima mostra cinematografica. Ma è tutto evidente che la priorità in assoluto per l'Unione Europea è l'emergenza migranti, con le nuove tragedie dell'estate nel Mediterraneo, i morti sui barconi, sui vari gommoni, e poi questo orrore dei morti asfissiati dentro i camion. Quindi la priorità dell'agenda europea, tra l'altro anche oggi altri, le navi dei Medici Senza Frontiere hanno salvato soltanto nella giornata di oggi 1658 migranti e altri centinaia. Anche la Marina Militare, un flusso che continua inarrestabile. È la priorità quindi dell'agenda europea, con il vertice straordinario che dicevamo ci sarà sarà il prossimo 14 settembre, ma nel frattempo ci sono vari incontri e abbiamo sentito che c'è questa intesa tra Italia, Francia e Germania per cercare di sollecitare ulteriormente l'Unione Europea e i paesi europei a trovare presto un accordo per gestire questa crisi umanitaria. Però la situazione rimane drammatica, caotica, ripartendo soprattutto da quella che era la notizia più importante di ieri a questo proposito, cioè il blocco in Ungheria dei treni che trasportavano centinaia di migranti verso la Germania, con le forti proteste dei profughi, i lacrimogeni delle forze dell'ordine, poi anche la tensione tra Austria e Germania. E oggi i fatti in primo piano sono quelli avvenuti a Praga, che hanno scatenato durissime polemiche internazionali. Si è parlato di migranti marchiati. In realtà le forze dell'ordine, le persone preposte alla gestione degli arrivi dei migranti nella Repubblica Ceca hanno segnato dei numeri col pennarello sulle braccia, sulle mani dei migranti. Certo, è un gesto, diciamo, particolarmente evocativo di tempi oscuri, diciamo, di metodi di nazista memoria, però di questo torneremo a parlarne dopo. Invece adesso iniziamo questo viaggio di Radio 24 lungo le rotte dei migranti. Europa 24 notte. E lo iniziamo con la nostra Valentina Furlanetto, che è proprio lì a Budapest. Valentina. Sì, buonasera a tutti voi, buonasera agli ascoltatori. Sono in effetti a Budapest, alla stazione New Gati, la stazione ovest della città, quella di cui tu parlavi, Roberta, quella chiusa, che rimane chiusa. Rimane chiusa. Che avete è la stazione Cheleti, ma questa stazione dove sono è quella da cui arrivano i treni dalla Serbia, è la stazione delle, diciamo, delle partenze degli arrivi nazionali, e quindi arrivano dalla Szeged, che è la città ungherese più a sud al confine con la Serbia, quindi arrivano questi treni pieni di persone, profughi per lo più siriani, afghani, quelli che compiono la rotta balcanica, e che da questa stazione si spostano in città e vanno proprio nella citata stazione Keleti, che è l'altra stazione, quella internazionale, che è stata appunto chiusa. In realtà noi siamo entrati, io sono entrata oggi, e per chi ha un passaporto, una carta di identità sotto così nel mirino, quindi non afghani, non siriani, non pakistani, si può tranquillamente circolare. Chi invece è di queste nazionalità, pur avendo un documento di viaggio, quindi un biglietto, noi ne abbiamo incontrati tanti di persone siriane e afghane che avevano il biglietto e ce l'hanno mostrato, ma non possono entrare e quindi bivaccano fuori dalla stazione, e devo dire è un spettacolo straziante, perché sono centinaia di persone, famiglie intere, bambini molto piccoli, che dormono da giorni in questo seminterrato a fianco alla stazione, nel piazzale davanti, nei giardini davanti. Mi dicevano fa molto freddo ovviamente la notte, fa molto caldo di giorno, oggi erano 30 gradi e ho visto dei bambini stremati. Sinceramente, Roberta, mi sono anche stupita dell'assenza di quelle agenzie ONU come l'UNHCR, che di solito invece è sempre molto presente nelle situazioni in cui ci sono delle crisi umanitarie per rifugiati e profughi. Probabilmente stanno per intervenire, probabilmente hanno dei progetti su questo. Al momento c'era Migration Aid, che è un'associazione ungherese, una ONG, che distribuiva ad esempio il pane. C'era una lunga fila di profughi che aspettava il pane, c'è stato anche un po' di tensione proprio per la situazione di frustrazione e di tensione che queste persone vivono da giorni. In serata, intorno alle 8, c'è stata anche una tensione con gli agenti di polizia. Alcuni migranti afghani che avevano fatto una manifestazione hanno tentato di forzare il blocco di polizia davanti alla stazione, non riuscendoci. Non ci sono stati lanci di gas lacrimogeni come invece era avvenuto ieri, però insomma la tensione era molto alta. Tra l'altro, Valentina, domani, come dicevo all'inizio, il Presidente della Commissione Europea Juncker dovrebbe incontrare proprio il Presidente ungherese Orban per discutere dell'emergenza che lì in Ungheria, al di là della durezza della linea del governo ungherese, è piuttosto drammatica, no? da quello che descrivevi, sì, mi sembra molto, sicuramente, molto sicuramente drammatica. Tra l'altro stride con una città che invece è chiaramente una città europea, molto elegante, molto aperta, e anche con la generosità di molti ungheresi, perché io ho visto proprio file di persone ungheresi che vanno alla stazione a portare pacchi di cibo, di abbigliamento. Poco fa vedevo proprio qui fuori dalla stazione c'era una famiglia siriana con cui ho parlato che questa notte la passerà sui gradini. Ci sono due bambini che avranno tra i 3 e i 4 anni, e c'era una signora ungherese che si è fermata a parlare con loro e gli ha portato dei biscotti, dei viveri. Ecco, è tutto un po' lasciato alla generosità iniziativa delle persone, perché il governo non sta facendo da questo punto di vista assolutamente nulla. Non ci sono, non c'è una distribuzione, ad esempio, d'acqua, che potrebbe essere una minimo, cosa utile. Diceva tra l'altro uno dei volontari di questa Migration Aid proprio oggi pomeriggio che l'altro giorno ha partorito una donna per terra davanti alla stazione, aveva le doglie improvvise e ha partorito lì davanti. Lei e la bambina sono in buone condizioni, però insomma questa è una situazione che avviene non nel Medioevo o in paesi del terzo, cosiddetto terzo mondo, ma in Europa. È a tutto tondo una crisi umanitaria. Grazie Valentina Furlanetto da Budapest. Ciao Valentina. Buona serata, grazie. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E di questa crisi umanitaria, che è veramente di complicatissima gestione, a meno che non sia che i governi europei si siano svegliati così troppo di recente per scoprire questo esodo epocale, di questo continuiamo a parlare con Enzo Moavero Milanesi, direttore della School of Law dell'Università LUISS di Roma e già ministro per gli affari europei del governo Monti e del governo Letta. Moavero Milanesi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Grazie della disponibilità. Insomma, tutto questo da una parte certo conferma che davvero si tratta di un esodo umano epocale, dall'altra forse c'è l'inadeguatezza dell'Europa nell'affrontare, nel gestire un fenomeno di questo tipo. Beh, l'inadeguatezza è sotto gli occhi di noi tutti e non da oggi, diciamo. Sono purtroppo vari anni che si sono ripetute delle tragedie, sono vari anni che si è constatata una grandissima inadeguatezza rispetto all'ampiezza del fenomeno. Il fenomeno non tocca solo l'Europa, perché non dobbiamo dimenticare quello che accade negli Stati Uniti, certo, la frontiera del Messico, le stesse isole dei Caraibi, la stessa Asia. Esistono ondate migratorie da paesi in maggiore difficoltà in paesi che sono ritenuti più accoglienti sotto certi profili, quindi è un fenomeno planetario. L'Europa naturalmente, rispetto a un fenomeno di questo genere, presenta un quadro desolante, soprattutto perché le nostre aspettative su un'Europa capace di risolvere i problemi si infrangono di fronte a una realtà molto diversa. Purtroppo chi conosce bene il funzionamento dei meccanismi europei, delle regole europee, dell'Unione Europea in generale, sa che questi inconvenienti, che a volte assumono contorni drammatici come nel caso di cui stiamo parlando, sono purtroppo all'ordine del giorno, perché l'Unione Europea è una realtà importante, una realtà storicamente e concretamente estremamente rilevante, ma non è ancora una realtà federale, se vogliamo usare un esempio di paragone con gli Stati Uniti. Quindi i meccanismi decisionali e anche le regole hanno delle imperfezioni che, quando si creano delle situazioni di crisi, lo abbiamo visto nel caso dell'economia, lo constatiamo in maniera più tragica di fronte alle migrazioni, ci sono molti anche altri elementi più sparsi e meno visibili, e l'Europa evidentemente arranca. In questo caso uno dei motivi di grave difficoltà è dovuto da una parte a questa inconfessata, individualmente ma molto evidente nei grandi numeri, inquietudine che le ondate migratorie suscitano in tutte le nazioni europee, in tutte le popolazioni degli stati europei. C'è indubbiamente una reazione molto contrastata, perché è emotivamente partecipe di fronte agli eventi tragici e di fronte alle situazioni individuali, ma è collettivamente intimorita di fronte all'ampiezza del fenomeno, e questo condiziona i governi perché trasforma immediatamente l'emozione in un fenomeno politico, e quindi qui dovremmo farci tutti una sorta di esame di coscienza, di autocritica individuale, perché sono le nostre individuali reazioni timorose che poi determinano una riluttanza dei governi a trovare degli accordi, perché questi accordi non sono solo accordi di regole. Oggi questo documento congiunto dei ministri degli esteri di Francia, Germania e Italia è importante, fa riferimento alla necessità di modernizzare le regole sull'asilo, di trovare dei meccanismi di controllo più uniformi. Di andare anche oltre l'accordo di Dublino, cioè l'obbligo di accoglienza dei rifugiati nello Stato in cui approdano, diciamo. Sì, no? L'accordo di Dublino, in realtà, di cui tutti parlano senza averlo letto, o perlomeno molti ne parlano senza averlo letto, l'accordo di Dublino sancisce un principio che ha una sua logica obiettiva. Vale a dire che il controllo sulle persone che arrivano per vedere se gli debba essere riconosciuto il diritto d'asilo o lo status di rifugiato, o se si tratta di situazioni diverse, al limite anche di situazioni di persone non ben intenzionate e che quindi non sarebbe positivo accogliere sul territorio europeo, dice la regola di Dublino, deve essere fatto dal paese dove la persona arriva. È difficile immaginare una regola diversa, perché se dicessimo lo si deve fare nel paese da cui la persona viene, significa che dovremmo spostare nei paesi da cui le persone partono, quindi in una miriade di paesi del mondo, perché il concetto anche di da dove partono è un concetto che riguarda il paese di origine iniziale e anche il paese da cui nell'ultimo tratto partono. Pensiamo alla tragedia dei battelli nel Mediterraneo, per approdare poi in Europa. Se diciamo il controllo deve essere effettuato nel paese in cui queste persone si stabiliscono, significa che però le persone dal momento in cui entrano nel territorio europeo, in un qualunque punto, circolano poi liberamente in Europa, perché non dimentichiamo che noi non abbiamo più controlli sulle persone alle frontiere in gran parte dei paesi europei, quelli che aderiscono al cosiddetto sistema Schengen. Quindi Dublino dice il controllo deve essere fatto nel posto in cui la persona che viene da un paese non Unione Europea arriva. Questo può funzionare se ci sono arrivi, non dico singoli, ma di poche persone, un traffico ordinario di immigrazione. Naturalmente diventa un carico di lavoro pazzesco per i paesi di arrivo quando ci sono queste ondate di centinaia di migliaia di persone. Muavero Milanesi, mi dica solo un'ultima cosa a proposito di queste polemiche fortissime. Anche Gattegna, presidente in Italia degli ebrei italiani, ha detto, ricorda la Shoah, questo fatto che a Praga hanno segnato il braccio, la mano dei migranti con un pennarello scrivendo dei numeri, insomma, per identificarli. Cosa ne pensa di queste reazioni e del gesto? Beh, io penso che da una parte obiettivamente c'è questo elemento evocatore di eventi terribili della storia europea, di noi europei contro altri cittadini europei che venivano in quel momento perseguitati in maniera drammatica, come sappiamo dalla storia. Quindi l'idea di un numero scritto col pennarello su una persona evoca immediatamente questo tipo di memoria bruttissima per la coscienza pubblica europea, e quindi è un'idea più che infelice, direi proprio malaugurata. Nello stesso tempo dà proprio il senso della difficoltà dell'emergenza, in cui si trovano, dell'emergenza in cui si trovano le amministrazioni, le forze dell'ordine, quando devono affrontare, hanno davanti decine, centinaia, persone, forse certo, qualche migliaio di persone, si assomigliano magari, non sanno come identificarle l'una dall'altra, non hanno documenti, non sanno come raccogliere. Devono farlo trovare velocemente. Ecco, non dimentichiamo, per esempio, per fare una analogia e drammatizzare il brutto aspetto di questo gesto di segnare un numero, che in molti paesi del mondo di nuova democrazia, quando si vota e non ci sono sistemi molto sofisticati di controllo di identità, si mette anche un inchiostro indelebile sul dito. Quindi purtroppo sono questi metodi che danno l'idea della confusione in cui ci si trova, ed è questo da qui l'importanza di stabilire delle regole più chiare, ma soprattutto vorrei ancora aggiungere questo, di stabilire dei meccanismi di condivisione del momento del controllo. Vale a dire, mi spiego, il controllo si può fare anche in Italia, in Grecia, piuttosto che in Ungheria o in Bulgaria, se le persone arrivano soprattutto in questi paesi, però i posti di controllo e i controlli dovrebbero essere, per usare un termine in uso nelle forze di polizia, interforze, cioè dovrebbero partecipare elementi di amministrazione, magari anche di forze dell'ordine, di tutti i paesi europei. Questo dovrebbe essere l'elemento di condivisione materiale, a cui poi si deve accompagnare inevitabilmente un elemento di condivisione dei costi. E poi ci vuole un meccanismo di quote di ripartizione per il destino finale di queste persone. Ed è quello su cui pare ci sia questa intesa tra Italia, Germania e Francia. Poi vedremo l'appuntamento cruciale del 14 settembre. Vedremo, perché non bastano questi tre paesi per fare la decisione europea efficace. E lì non dimentichiamo che c'è un'altra asimmetria importante che ci riguarda, perché ci sono i paesi in cui arrivano queste ondate migratorie che subiscono il primo impatto, e ci sono i paesi dove poi i migranti desiderano stabilirsi per motivi familiari, per motivi di benessere, e qui c'è proprio una differenza. La Germania ha accolto molti più migranti di noi in tutti questi anni, ma molti di più, laddove è stata molto meno oggetto di primo impatto. Già. Ecco, occorre che i due elementi siano più equamente ripartiti e condivisi. E lo staremo a vedere. Intanto grazie professore Enzo Moavero Milanesi, grazie. Grazie. Buona serata. Ci fermiamo brevemente, prendiamo questa pausa di riflessione e di ricreazione, e poi torniamo con altri temi. Ci sarà il cinema di Venezia che apre proprio stasera, poi parleremo anche di questa vittoria, almeno per il momento, di Obama con il congresso americano a proposito del nucleare iraniano. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi anche con me, 349-238-6666, il numero per gli sms, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Riccardo dice: mi chiedo cosa diranno tutti quelli che ora indicano in profughi e migranti vari il male assoluto se l'ivoriano Mamadou dovesse risultare innocente. Per il momento ci sono indizi molto pesanti nei suoi confronti, aveva il cellulare e il pc di una delle due vittime della coppia, aveva indosso i vestiti dell'uomo che ha ucciso, i suoi pantaloni con tracce di sangue erano in un sacco, però certamente per ora è soltanto indagato, bisognerà vedere poi quanto sia coinvolto nella vicenda. E poi gli altri messaggi a pagina Facebook di Effetto Notte li leggerò tra pochissimo. Stiamo per collegarci con Parigi per l'incendio che c'è stato nel quartiere di Montmartre, però prima vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie principali. Migranti, intesa tra Italia, Francia e Germania per una redistribuzione più equa in Europa, più controlli anti-immigrazione alla frontiera del Brennero, dure reazioni contro Praga che segna i migranti col pennarello. Scuola, gli assunti sono 38.000, la mobilità riguarda solo 7.000, dice la ministra Giannini, il grosso dei trasferimenti dalla Sicilia verso la Lombardia. Tasse sulla casa, Renzi ne annuncia il funerale per il 16 dicembre, a Bruxelles, che ieri aveva criticato queste misure, replica: decidiamo noi, non l'Unione Europea. Iran, vittoria per Obama, i voti necessari per blindare al Congresso l'accordo sul nucleare. Parigi, parleremo tra pochissimo dell'incendio. Cinema, la mostra del cinema di Venezia apre le porte con il film in 3D Everest dal cast stellare. Dicevo, questo fatto di cronaca di Parigi, vicino a Montmartre, in un quartiere abitato in prevalenza da arabi e africani, e infatti tra le vittime c'è un'intera famiglia senegalese. Ci colleghiamo con Parigi, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Ciao Marco. Buonasera a voi. Pare che sia stato fermato l'autore di questo incendio? Ma sì, direi che la situazione è ancora, per certi versi, peggiore di quella che si poteva immaginare stamattina, nel senso che è una tragedia assolutamente senza senso apparentemente. La polizia ha fermato una persona, un uomo di 36 anni di origine algerina, con precedenti vari per traffico di stupefacenti, furti e con gravi problemi psichiatrici. Dalle prime indagini sembra che si tratti, come dire, di un matto che ha appiccato il fuoco al pianterreno di questa casa così, senza alcuna ragione precisa. che rende la situazione per certi versi ancora più assurda, perché non hai nemmeno una spiegazione, certo. come fai a accettare l'idea che ci siano otto persone morte, tra cui due bambini, un ragazzino, quattro feriti gravi, e per il gesto sconsiderato di un pazzo, peraltro conosciuto nel quartiere, che era uno squilibrato e che, insomma, quindi anche qui, insomma, forse davvero, insomma, bisogna interrogarsi sul controllo, si può prevenire come al solito, insomma, ecco. Grazie Marco Mussanè da Parigi. Ciao Marco. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccole brevemente le notizie con il caos migranti, la difficile gestione di questo flusso epocale da parte dell'Europa e la polizia della Repubblica Ceca che marchia, dicono un po' tutti i media, ma segna con un pennarello i profughi. E intanto Berlino, Parigi e Roma trovano un accordo in un documento, dicono bisogna che l'Unione Europea agisca subito. Renzi annuncia che il 16 dicembre ci sarà il funerale delle tasse sulla casa, dice decidiamo noi, non Bruxelles, su questo tema. Scuola, assegnate le sedi, 7.000 insegnanti in mobilità ma con posto fisso, 10 giorni per decidere se accettare lo spostamento da una regione all'altra. Poi Iran, vittoria per Obama, ne parleremo tra pochi istanti, dell'incendio di Parigi tra le 8 vittime, l'intera famiglia senegalese, ne abbiamo appena parlato, e poi tra poco anche ci occuperemo della mostra del cinema di Venezia. Caro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, ciao Marco. Ciao, buonasera. Allora, vi ricordate, dico alle ascoltatrici e ascoltatori, che a luglio, dopo circa 2 anni di trattative e di negoziati, è stato trovato uno storico accordo sul nucleare iraniano, no? Quindi tra l'Iran e i cosiddetti paesi 5+1, cioè i membri del Consiglio di Sicurezza ONU, che sono la Gran Bretagna, la Francia, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, più la Germania. Cosa prevede questo accordo? Che i paesi occidentali hanno concesso di eliminare progressivamente le sanzioni all'Iran, purché l'Iran accetti di limitare il suo programma nucleare a scopi civili e faccia di tanto in tanto controllare da parte dell'ONU le sue installazioni. Che cos'è il successo di oggi di Obama? Ce lo spieghi, Marco? Sì, è un successo politico che garantisce che l'accordo possa restare, che l'accordo vada avanti. Infatti, come hai ricordato, l'accordo è stato raggiunto, ma negli Stati Uniti l'opposizione politica a Obama e al compromesso con l'Iran è stata forte, soprattutto tra i repubblicani ma anche tra i democratici. Quindi Obama aveva bisogno di un sostegno minimo in congresso per evitare che l'intesa venisse messa al voto e bocciata a tutti gli effetti. Oggi è arrivata la decisione del 34esimo senatore democratico che è una senatrice, poi dell'accordo, e che poi è una senatrice, esattamente la senatrice Barbara Mikulski del Maryland, che è diventata il 34esimo senatore democratico a favore dell'accordo. Questo cosa significa, detto in una parola, cioè che Obama ha sufficienti voti al Senato, 34, per sostenere un veto a qualunque mozione congressuale di bocciatura dell'accordo. I repubblicani potrebbero andare ad un voto in Senato entro il 17 di settembre, anche qualora passasse una mozione di sfiducia sull'accordo. Ecco, Obama ha già detto che porrà il veto, e questo veto farà fede, verrà sostenuto, perché il congresso non avrà voti per ribaltarlo, voti sufficienti per ribaltarlo, infatti avrebbe bisogno di 2/3 del Senato per ribaltare il veto, e con questi 34 democratici schierati con il presidente sull'Iran, l'intesa è sicura. Questo voto non c'è, l'intesa è sicura. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Arrivederci. Ciao. Leggo tra i vari messaggi al 349-238-6666. Se non dici che l'imprenditore si è suicidato dopo aver ucciso la Moldava, dai cattiva informazione. In realtà prima avevo riassunto, ne avevo già parlato ieri, avevo riassunto, diciamo, gli ultimi fatti di cronaca di femminicidi di questi ultimi giorni. Avevo detto l'imprenditore vicino Brescia che ha ucciso la ragazza di 18 anni che lo voleva lasciare. È chiaro, forse per l'ascoltatore è meno grave per il fatto che poi si è impiccato, quindi che abbia tolto la vita a questa povera ragazza di 18 anni, diciamo, è meno grave se si è ucciso poi lui. Dovrebbero invertire, diciamo, le azioni temporali, impiccarsi prima e così evitano di far fuori poi le donne, compagne, ex compagne, eccetera. Ma adesso ci occupiamo, anzi, prima di collegarci con Venezia, tra i vari messaggi c'era anche questo. Dice Giovanni: cara Roberta, che dire, potrei essere io, la mia famiglia, profughi senza nulla, sono sconvolto se mi immedesimo. Questa è la sensibilità di Giovanni. Adesso però cambiamo tema, ci alleggeriamo, andiamo a Venezia, dove si sono aperte le porte della 72esima mostra internazionale d'arte cinematografica, apertura in pompa magna con Everest, film fuori concorso di Baldassarre Comarcourt, tappeto carpet rosso, dove sarà passato sul tappeto anche la nostra Cristina Battocletti, giornalista del Sole 24 Ore, scrittrice, ultimo libro di Cristina Battocletti, La mantella del diavolo. Ciao Cristina. Ciao Roberta, grazie, buonasera agli ascoltatori. Cristina, quindi questo film tra l'altro è fuori concorso ma in 3D, sembra una cosa spettacolare. Sì, devo dire che il 3D è la cosa meno rilevante alla fine, perché quello che ti prende veramente tanto sono questi effetti speciali, anche se è stato girato nella Val Senale, sulle Dolomiti, e soltanto le riprese panoramiche sono sull'Everest, però tutti immedesimi veramente in questi crepacci, nel fatto che loro cominciano a avere dei principi di congelamento, nel fatto che non sentono l'aria, almeno io dico quelli che hanno fatto almeno un'ascensione in montagna. Io a un certo punto, anche se è un colossal, pesantemente colossal, mi sono sentita dentro. Senti, si rifà una tragedia del 1996, no? Se sì, non sbaglio. Sì. E si rifà a un libro che ha scritto Krakauer, che è questo reporter di Outdoor, che è il giornale per cui era lì, e racconta la vicenda di queste guide che si sono messe insieme, hanno messo insieme due squadre, due cordate per andare sull'Everest. Uno è Rob Hall, interpretato da Jason Clarke, e l'altro è una guida ed è quella seria, diciamo, quella prudente, quella che ha cura dei suoi clienti tra virgolette. L'altro è quella un po' più scanzonata, un po' quella che cerca più che altro il guadagno. Il vero accento di questo film, in tutti i suoi difetti da super colossal, è che bisogna capire perché l'Everest è diventato un vero centro commerciale, in cui chi ha dei problemi grossissimi con se stesso non è allenato, prende spiritualmente e fisicamente, prende e va a fare 8.000. Non so se avete mai provato a fare 2009 e sono durissimi. E sono già 8.000. Tantissimi. Non voglio pensarci. Senti Cristina, a parte questo, che poi uscirà in Italia adesso, mi pare abbastanza presto. Sì, ci sono fine settembre quattro film italiani in gara, anche se mi sembra, sì, che ci siano poche speranze in realtà, se ho ben capito. No, perché? No? Perché? Ah, leggevo la critica un po'. No? Siamo moltissimo per Bell'occhio. Anzitutto Sangue del mio sangue. Sangue del mio sangue, che racconta la storia di questa monaca secentesca che ha avuto una storia d'amore con un sacerdote che poi si è suicidato, torna Bell'occhio a Bobbio, nella sua Bobbio, e viene accusata di satanismo. E poi a un certo punto c'è un salto temporale, io non l'ho visto, ti racconto la sinossi, certo. C'è un salto temporale in cui si torna alla nostra epoca, nell'assurdità delle nostre paure, per esempio internet, per esempio i controlli della finanza, e ha una fotografia veramente caravaggesca di Daniele Cipri. Io ci conto moltissimo che prenda un leone di qualsiasi lega, però insomma secondo me c'è buona speranza. Poi c'è Piero Messina con L'attesa, un film sicilianissimo ma con Juliette Binoche, e questo è un esordio. Poi c'è Guadagnino con A Bigger Splash, che non piace agli italiani ma piace agli stranieri, e sappiamo che il presidente della giuria è Cuaron, e quindi potrebbe avere delle chance. E poi c'è l'altro, Per amor vostro, Per amor vostro, che è di un napoletano. Tutti ritornano alle origini, tutti questi registi, e ha delle buone chance con Valeria Golino, questa donna un po' soffocata dalla vita psicologica e lavorativa. Insomma, Io non darei per niente scontato che gli italiani se ne vadano via a mani vuote. Beh, noi lo speriamo. Senti, invece dalle mani passiamo ai piedi. È vero che ho visto vari attori con l'infradito sul red carpet o di qualsiasi colore, questo è lo stile. Sì, che... questa è la nuova moda. Com'è che mi possono guardare? Cioè, sì, come diceva Nanni Moretti, si noterà di più se sto se al centro della sala. Se vado, se non va. Io ho guardato soprattutto gli sherpa meravigliosi che andavano sul red carpet, poi c'era questa commissione divertente tra questo Jake Gyllenhaal, che è il nuovo idolo delle ragazze, nessuno si ricorda che ha fatto Brokeback Mountain. Ah sì, adesso è molto barbuto, era nascosto dietro la barba, forse per quello che qualcuno non l'ha riconosciuto. Beh, forse perché sono tanto giovani, si va lì a urlare e non ci si rende conto di chi c'è sul red carpet. Poi c'era Josh Brolin, poi c'era Diane Kruger, bellissima, in mezzo c'era il capo dello Stato, poi c'era Dario Franceschini. È vero, Mattarella con la figlia. Cristina Battocletti, qui ci dobbiamo lasciare, a te intanto buon divertimento. Bene, state bene tutti. Grazie, ciao Cristina, saluti Venezia e le varie star. Adesso noi ci dobbiamo lasciare per ritrovarci brevemente alle 22.